tecnico che si addice con quel tipo di radio che sto usando adesso è 60. Sì, ti ho capito perfettamente. Vabbè, adesso tiene quello lì, poi quando gli arriverà il 60 faremo le comparazioni con il 60, però ordinato, che non fischi, che si possa amplificare, se no così io non riesco a capire tutto lì. Vabbè, avanti Massimiliano, vai, io inizio a allontanarmi dalla radio e a prepararmi per uscire a portare il cane. Vai Massimiliano. Sì, no, per me va bene, è che c'era troppa confusione, capito, non si comprendeva nulla. Quel microfono si porta dietro, è molto amplificato e si porta dietro tutti i rumori, e quando si fanno le prove di radio così cazzo, la gente chiacchierando dietro, sentivano più loro chiacchierando che Riccardino in radio, capito tutto qua. Comunque l'ultimo passaggio che ha fatto per me va bene, meglio del 60 anche secondo me, è che adesso magari quando modula che c'è silenzio la cosa è diversa, capito? Io dico che per Riccardino va bene lo stesso, però deve parlare da lontano, questo sì, tutto lì. Poi chiaramente non è che siamo così fiscali, ci mancherebbe altro, ma stiamo discutendo di qualità, perlomeno io sto discutendo di qualità, non di potenza, io sto discutendo di qualità del radio. E io lo sentivo meglio con l'altro microfono, anche se non era amplificato, era un microfono normale, quello che vuoi, dimmi quello che vuoi, però come radio era più bella, più pulita, tutto lì. Questo non si può dire che non sia buono, certo che è buono, ci mancherebbe altro, un microfono a 200 euro, caspita, ci mancherebbe altro, però con la sua voce dovrebbe parlare da lontano e probabilmente senza nemmeno gridare, dovrebbe parlare in maniera abbastanza pacata. Io sono convinto che parlando così va bene ugualmente, anche per Riccardo, certo, Riccardo ci sei. Sicuramente non ci sono più, sono allontanati, sì, vabbè, si piace a Edo, l'importante è che piace a lui, ma cioè, ti ripeto Giulio, l'ultimo passaggio stava andando benissimo per me, per i miei gusti, poi giustamente ognuno c'è i suoi, è che c'era troppo brutto, quindi la modulazione sembrava tutta strana, capito? Va bene, Natalia, riprendi. E aspetta che vi ascolto, che sto facendo cosa al microfono. Sì, Massimiliano, è così, tranquillo, è così. Ti ricordi quante prove abbiamo fatto noi con quella stessa radio? E non c'era Cristo, non c'era Cristo. Siamo andati sull'MB+5, come Giulio, a Giulio gli ho spiegato la differenza. Con l'MC60 la modulazione è molto più corposa, però è molto più gracchiante, capito? Lui c'ha molti acuti, ma è molto chiara, molto bella. Con l'MB+5 o +4 che sta usando è completamente diversa, corposa, c'è i medio bassi, c'è i medio alti e non gracchia, capito? E quello è il problema. Roberto fa schifo con l'MC80, ma gli ho detto già da tanto, perché ce l'ha anche lui e non lo usa mai, perché glielo ho detto io, non metterlo da parte perché non va bene. E ha messo il 60, come d'altronde tu Massimiliano, quante prove abbiamo fatto con tanti microfoni, finalmente il cambio che c'è stato anche della radio ti dà l'opportunità di andare molto meglio a te col 60, con l'80 non eri male, però ci avevi più bassi e meno acuti, mentre col 60 c'hai i medio alti un pochino più composti, tutto lì. Sì, ma io sto dicendo un'altra cosa, Clara, io sto dicendo che a me l'ultimo passaggio che ha fatto Riccardino era bello, non c'è niente da dire, capito? Non c'era niente da dire, però purtroppo siccome è un microfono si porta molta amplificazione dietro, facendo delle prove così e ascoltando cazzo, le urla di dietro, cioè la chiacchierata di dietro, non riesci proprio a capire bene il tipo della modulazione, se è buona, se non è buona, perché senti di più quelli che stanno chiacchierando dietro che quello che davanti alla radio, quello solo ho detto io e basta. Però a me così la radio piace. Secondo me è meglio del 60 all'80, secondo me, mio parere personale. Ma anche secondo me, perché io li ho provati, c'è una timbrica e modulazione completamente diversa, però giustamente io non faccio testo perché sono l'unico a Sassari, ma non per presunzione, ma è così, che nessuno riesce a avere con il capo la modulazione che ho io. Ma è una mia cosa personale di corde vocali, quindi io li porto tutte e quattro benissimo. Ok, perché io ho provato anche, che non si può comprare perché costa 260 euro e fa schifo, perché è uguale a un 60, non oggi compreso anche con lui sì, ma l'MC 90, non so se voi l'avete mai provato, io l'ho provato e non cambia assolutamente niente, capito? Non, per me non cambia niente dal 60 al 90, quello che l'ha comprato, che è un radioamatore, se l'ha rivenduto e si è comprato un 60 perché per lui non andava bene, capito? E questa è la differenza. Sì, ma questo certamente è così, non ci sono dubbi. Io ad esempio con 60, se parlo da lontano la modulazione è buona ugualmente, solo che non è che sono fatto di marmo, anch'io mi muovo, anch'io mi avvicino, anche senza volerlo, e allora a questo punto posso anche strappare, certo che posso strappare, ci mancherebbe altro. Io adesso in questo momento sto usando il 60, come vedi non è perché mi sto anche ascoltando, non sta strappando per niente, la radio è pulitissima, abbastanza chiara, non vedo la differenza dall'MB4, l'MB4 è più forte, questo sì, è più forte come modulazione, però la chiarezza del 60 è ottima lo stesso, come sto parlando adesso, se poi mi avvicino così e magari così sbagliatamente aumento anche la voce, adesso mi sono di nuovo allontanato, allora probabilmente strappo, cosa vuoi che ti dica qua? No, c'è proprio un abisso, io ti registro da uno all'altro, c'è un abisso, l'MB più 5 o l'MB più 4 che stai usando per la tua modulazione al 60 se lo mangia in tutto e per tutto, come tonalità acuta, come medio bassi e come chiarezza di modulazione, nessuno mi può dire il contrario. No, io mi devo allontanare, scusate, entro così un po' alla brusca, mi allontano, ci sentiamo più tardi, là, se coincide, ok? Sì, adesso sì. Ti ascolto, ciao Massimiliano, dopo, ti ascolto Claudio, dimmi. Ciao Massimiliano. No, quando attacchi è da buttare via tutto quando attacchi Cla. Sì, ma con l'ala 48 non lo puoi usare quel lineare, te l'ho già detto Cla, non lo puoi usare, devi usare un lineare a MOSFET, altrimenti ti satura la modulazione. Non lo so, com'è satura? Guarda, chiedi a Giulio, io ti devo lasciare perché devo portare il cane. Ci sentiamo dopo, riprendete voi e io ci sentiamo dopo, ciao. Ok, ciao qua, ci sentiamo. Io lo sento bassissimo, dunque non posso nemmeno valutare. Ciao Claudio Spargiero e ciao Claudio De Mulos. Ti ascolto bassissimo e dunque non posso valutare la radio. Ciao. Giulio. Ehi Natale. Guarda com'è la radio adesso, che gli ho fatto una cosa alle MB più 4. C'era anche Mulos che stava parlando insieme a te da sotto, ti faceva un po' rovinare la radio. Dai, riparla di nuovo con Natale. Guarda com'è adesso. Per me è buona, così va bene, dai. Va bene così. Aspetta che provo a metterla a metà. Guarda un po', va bene la radio, molto amplificata è o no? No, non è che sia molto amplificata, è chiara, è buona. Molto amplificata non è, però è buona. Guarda così adesso. Adesso è più forte. E adesso è a manetta, va bene come radio. Adesso è più forte e va sempre bene, sì. E va sempre bene. Ok, dai. Mi che c'è quello di Mulo, se lo senti, tu non lo so se lo senti. Io non lo sento, è inutile che ci parlo perché non riesco a sentirlo, è troppo basso. Neanch'io lo sento a Claudio, mi dispiace. Ma da qui non lo sento, c'è un'antenna troppo bassa giù io. E non arriverò neanche io lì. Purtroppo mi dispiace, se mi senti Claudio, la colpa è mia, c'è l'antenna bassa. Non sta rispondendo in questo momento. Vabbè dai, andate lì. Ci sentiamo più tardi o domani se coincide, che ascolto il notiziario per vedere il coronavirus a Sassari com'è. Ok, ci sentiamo, ciao Natalia, alle prossime. Dove l'ascolti il notiziario giù prima di chiudere. C'è la televisione, Ehi, ho detto, dove lo ascolti? In che canale? Su Visionina, che trasmettono continuamente il telegiornale. Una volta che danno le previsioni del tempo, poi inizia di nuovo da capo, inizia il telegiornale. E dunque proprio all'inizio praticamente parlano di quello. Vabbè, giù. Buon proseguo, allora anche io me lo guardo. Tanto se non c'è nessuno, con chi parlo? Con Muro? Ok, d'accordo, a domani, allora dai, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao Giulio, alle prossime. Attenzione, canale 10. È scappato. Ehi, allora non posso trovare il radiosegnale. Sei un po' come si chiama. Aspetta che tu... Guarda così, va bene il microfono. Scappa, là. Vediamo un pochettino, dai, come sta uscendo. Sto provando un microfono nuovo, ho fatto i collegamenti, ma mi stavo a fischiare. Ah, perché c'era parecchio attaccato, dai. Ho capito adesso, non dovrebbe fischiare. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, molto sacco, sì. Capo, ho capito. Un secondo solo, dammi che sto facendo un lavoretto. Hola. Eccomi qui. Claudio, come va questo microfono? Abbiamo fatto i collegamenti. Hola. Un po' troppo alto mi sembra già, basta appena. Hola, 1, 2, 3, prova, guarda. Ho fatto i collegamenti adesso, MB più 5, dai. Dove l'hai messo? Ah? Dove l'hai collegato? Questo qui è collegato al mani. Nella radio, appena devi abbassare già. I toni non li ho toccati ancora, non sono riuscito, non li ho regolati. Sono per regolare, sono qua, i toni a zero c'hai. Allora, adesso sono a zero, Claudio. Mettili a 1. Guarda, 1, 2, 3. Mettilo a 2. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettilo a 3, a 4. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettilo a 5. Guarda così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mettilo a 6 ancora il tono, senza toccare la preamplificazione. Ehi, guarda, 1, 2, 3, non sta toccando nulla. No, mettilo a 7. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, mettilo al massimo, vai, mettilo al massimo il tono. Così al massimo, Claudio. Così è più bella. Vedi, vedi tu che ti mancano i bassi, cioè ti mancano gli acuti, devi tenere i toni alti. E c'è la stessa voce di Massimiliano. Così va bene già. Il tono al massimo, il microfono quanto ce l'hai? Il microfono, adesso è al massimo. No, va bene, lascia tutte e due al massimo, lasciali. Che bella, va bene così allora. Per me sì, per me va bene, avanti Black. Claudio, la facciamo che sto per andare una prova in banda laterale, se va bene, perché lui così poi volevo fare questa prova veloce per vedere come regolare la radio. Sì, ma devi dire a Roberto stare zitto, si deve togliere a mezzo ai piedi. Sì, vai qua sul canale 10 in banda laterale, Gianni, un minuto che faccio la parola a Fabrizio. Vai. Siamo a piacere, siamo a destra, a sinistra, in gruppo. Sotto a terra. stato io quando ero al nono piano. Ecco, il commutatore commutava da una stanza all'altra, per quando stava dormendo mia figlia, no? Perché io c'avevo le radio al nono piano nella cameretta di mia figlia, capito, quando era piccolina. Allora mi avevo portato una radio nell'ingresso, lo stesso, con un tavolino e una sedia, me l'avevo messa lì. Ehi, ancora, scusa un attimino, che sono andato a prendere il telefono. Cosa già? Che sono andato a prendere il telefono, devo fare una telefonata. Vai, vai. Io sono qua già. Anch'io sono qua. Si mangia un bel, chi è? È Capri 2, Robo Riccardi. Io lo so che non va bene, ma è così metrica. Io lo sento, non ho problemi. Se gli altri non lo sentono, gli hanno detto di mettere un lineare. Io lo sento, per me può modulare tranquillamente senza lineare. Io non so cosa dirti, Gianni. Avanti, Riccardi. No, adesso anche dalle mie parti va bene senza lineare. Ma hai aumentato qualcosa, Ricca? Sto guardando, no, deve essere perché ho il baracchino acceso là, che sta facendo interferenza un po' in macchina. Abbassa il volume degli altri baracchini. Non deve attaccare niente, deve modulare così. Aspetta un attimo, Gianni, riprendi Ricca, che voglio vedere. Mi sembra ho sentito un rumorino, prova. Ok, adesso riprovo, ho spento il baracchino là. Perfetto, adesso va bene. Usa il lock, dove c'è scritto lock, usa quello, tic tic, capito? Così non usi le mani, non ti impegni le mani. Ma infatti uso sempre il lock. Bravissimo, bravissimo, come faccio io? Io ti ascolto magnificamente bene, bella radio, forte e corposa. Bene, questo microfono sta andando bene, quindi adesso vediamo. In un messaggio poi ti scrivo le cose. Non ti preoccupare, io ho già parlato con Fabrizio e quindi sono d'accordo con Fabrizio, ok? Poi ti ripeto, se ti serve lo tieni, se non ti serve me lo restituisci, Ricca. Non succede assolutamente niente. Però io ti posso dire che quel microfono va bene per te, va benissimo con quella radio. Ok, va bene, allora vediamo adesso, come ho detto ti mando un messaggino perché so che con quell'MX60 già non era amplificato e se mi state dicendo che questo va benissimo, allora penso che mi metterò questo. Quello va benissimo, te l'ho detto e te lo ripeto, per me è un'ottima modulazione e vai bene, poi se ti piace esteticamente, non ti piace, queste sono cose che devi vedere tu, però per me va bene quel microfono, ok? Ok, va bene. Alla fine, Gianni, comunque ti saluto a tutti, sì, sei meglio senza lineare. Sto usando un MC80, ok, MC80, e vabbè già funzionano, riprendi Riccardo, vai, saluta Gianni. Fatti sentire, sì, cosa ti ha detto Gianni, lui ce l'aveva col microfono, va bene? Come ho detto, va bene, così, allora. Non c'è rimasto nessuno sul 10, sono tutti scappati. No, c'era Gianni che non so cosa stava facendo, Gianni doppio room, gli altri sono andati tutti a mangiare. Poi c'è una ruota sul canale 20, che però io non rimango qua, dai. Comunque Claudio, stavo guardando così, prima stavo, che mi davi questo, stavo guardando i microfoni, ho visto che l'MC80 c'è anche di diversi tipi, senza la spugnetta, diversi modelli ce ne hanno fatto, questo secondo me forse è il migliore. Quello è l'ultimo, quello io l'ho comprato nuovo, la spugnetta non te la danno, la spugnetta non te la danno in dotazione, te la devi prendere tu a parte, capito? Quella io l'ho presa a parte, ma ne ho anche un'altra più piccolina. Però lasciale quella lì, non la perdere perché non si trovano di quelle dimensioni, Erika. Bisogna ordinarle da internet, capito? Sì, ho capito, no, non la tocco. No, non la perdere, a toccare la puoi togliere, te la puoi anche lavare, fare quello che ti piace. Però sto dicendo, se la perdi, non si trova così piccolina, io l'ho dovuta ordinare da internet, capito? Ma ordinate Luca, perché non le trovavo qua a Sassari. Ho capito, no, ho già guarda, non la tolgo neanche, non mi azzardo neanche a toglierla. Se va bene così, per lei vuol togliere, la lascio così, non lo tocco. Come hai detto tu, no tocco, se non tocco c'è la radio, non tocco c'è il microfono. No tocco c'è, bravo, no tocco c'è, vai benissimo. Parla a quella distanza lì che va benissimo, meglio di quello che stavo dicendo prima. Poi sono d'accordo con Fabrizio, appena se poi vuoi non ce n'è problema, capito, si può provare anche qualche altro microfono, però intanto usa quello perché quello va bene. Poi quando Fabrizio ti dà l'altro MC60 allora lo provi e facciamo le differenze. Quello che va meglio lasci, oppure ti puoi prendere anche l'MC60 e tenere anche l'MC80, così ce li hai tutte e due, perché io ce li ho tutti i microfoni della Kenwood, capito? Ho capito, ho visto, me li sono guardati tutti, che hai anche tu, mi avevi mandato la foto, l'MC50 più o meno è uguale al 60, cambia solo che ha due tasti invece che quattro. No, la differenza dall'MC50 al 60 è che l'MC50 non è preamplificato, è un microfono normale, dinamico, che va molto bene anche, capito? Quindi non c'è problema, però ti consiglio di usare o il 60 o l'80, capito? Che vanno molto bene. Va bene. Va bene che va bene, Riccardi, dai, stai migliorando piano piano, con un po' di aiutini nostri già te vanno bene. Poi vedi tu, ti ripeto, quello che va bene e te lo tieni, se no te li prendi tutti e due come ho fatto io. Io ce li ho tutti e due, avevo anche l'85, però non mi serve l'85 perché c'ha l'equalizzatore che a me non serve, io sono già equalizzato e quindi l'avevo dato assieme a una radio. Però l'80 l'ho tenuto, non si sa mai, vedi, adesso serve a te, lo stai usando tu. Sentite cosa ha detto zio Natalino, no tocchese. Sì, lo so, ormai il motto, dovremmo scriverlo in frequenza a proposito su di me. No tocchese, no tocchese la radio, no tocchese il microfono, non tocchese niente, se vai bene. Infatti, abitura come è stata due volte, ogni radio. Cioè, Natalino, tu c'hai esperienza della TV, meglio di così penso non si può uscire. Che abbia una voce calda, che abbia una voce grossa, che abbia una voce alta, per me va bene così, è ottimo. Infatti, anche perché lui c'ha la voce bianca, deve ancora farcela la voce, è capito? Va fin troppo bene. Ti sembra andare a sperare come deve essere. Hai sentito la chiesa Natalino? Vai anche troppo bene per i miei gusti, veramente. Per me vai benissimo. Poi vediamo più avanti cosa succede, Ricca. Ma poi deve essere che ha piazzato l'antenna vicino, troppo vicino ha piazzato. C'ha problemi di messa a terra, quella la devi far fare, Riccardi, è molto importante la messa a terra. Lo so, bisognava farla, ma tanto adesso la devo mettere tutto dentro casa, mi devo fare il bunker dentro e quindi miglioro tutto, faccio tutto quello che devo. Te l'ha detto Roberto che ti abbiamo trovato la scrivania, Riccardi, ma metteci il testo. Riccardo. Un problema dove? La radio. Claudio. Ehi. Aspetta che ti chiamo se mi senti, perché sto avendo problemi. C'è qualcuno? Aspetta, c'è Riccardo e Claudio che ci stanno telefonando un attimo. Ciao Matteo. Ciao Natalia. Sono andato a mettere un po' di benzina alla macchina. Senza benzina non vai. Diciamo che sta tenendo un po' il prezzo basso ancora. Sì, come è che la gente lo vede se la mette a buzzinosi via. E adesso c'è il gasolio che è 1,169, no 1,189 e la benzina 1,289. Che ragazzi. È chiaro che è una. Questa radio com'è, Massimiliano? Beh, come sta andando Riccardo? Bene? Sì, sta andando bene. Sì. Com'è la mia radio, Massimiliano? buona, forte. Anda bene Meda. Sta amplificando un bel, si intende un bel televisione. Forse mi devo avvicinare di più al microfono. Ecco, così è meglio, però devi anche abbassare appena appena il televisore. Minimo. Allora devo dire a minimo il televisore, da no che non si capisce quello che dice. Ma scivi che c'è, Riccardino che ce n'è andato in banda laterale. Metti a M, Ricca, a M. Come ti ha detto? Schiaccia il pulsantino dove c'è scritto M, schiaccia quel pulsantino. Mi dà no, adesso ho fatto perché sono andato sulla funzione A. Boh, ho risolto, scusatemi. No, allora, aspetta che ti richiamo io al telefono, aspetta che ti sei incasinato. Ti prendi Massimiliano. Io già sono qua, sono appena rientrato. Oh, io, mamma mia, come sto? Come stai? Non aggiungare fa nulla e non ho fatto nulla, ma non aggiungare fa nulla. Se tutto va bene siamo a rovina. Cristo, grazie. Ti manco il travaglio più che andai. Oh, io. Infatti. Vabbè, che ci deve fare? Quegli aggeggi che ci avevi prima, quando hai piazzato l'antenna, Nathalie, capisci a me? Se li hai venduti o ce li hai ancora? No, non c'ho più nulla. C'ho questo... No, vabbè, uno era... Mi sembra che uno in macchina e uno a casa, così. Uno era blu e l'altro era giallo. Sì. Ah, quindi non ce n'è più. Kappa positivo, kappa brioche. Beh, sta solo a Lucariello. Ero un po' in giro con la 25, sono andato a fare la spesa. Sono sceso in campagna dalla mamma. E poi siamo andati a berci una birretta con un bar via Pasqua. E niente, sono detto come ho fatto, ho toccato il computer, praticamente uscivo a salire a verticale, no? Solo io ne ho panni delle CD. E la volevo cambiare perché era un po' fastidiosa. Allora, muscio, non era tipo vidiata, va. No, aperto, ho visto che nella scheda c'è una macchia nera. Cioè, era la prima che stava partendo come computer. Tu colora la falla bianca. No, sono partiti i componenti, Massimiliano, micro componenti sono partiti. Se la vedi in culo, l'altro non fa niente. Mi auguro i pozzi qui. Positivo il KKK. Attenzione, punto per se ascolti il doppio lungo. Io già ti ascolto, sì. Sei uscito a fare la sentinella in macchina, cazzo me lo sei più rientrato, invece andando in America a pigliare la macchina. Sono rientrato, Sono più rientrato, sì che sono più rientrato, ma stavo facendo roba a casa, vai. No, io, no, siccome poco fa tu hai detto, sono entrato in zicca e mezzo. Esco in macchina, mi porto il portatile e poi ci sentiamo dalla macchina, ma non ti sei fatto sentire però. Perché avevo le batterie scariche, bulldozer, l'ho attaccato e c'erano le batterie scariche, ho detto una cosa l'ho bruciata, magari non mi intendi. Siccome non ne ho fatto di collegamento in macchina, capito? Ma sì. Ehi, dimmi qua. Gli ha fatto quel difetto, ti ricordi quello che ha fatto a me? Dice aspetto il frequenzimetro. Ti ricordi che l'avevamo detto a Fabri da una controllata? L'ho detto anche io, ma bisogna che lui chiami a Fabrizio però. Infatti io gli ho fatto fare una prova perché io ce l'ho riuscito a farlo ripartire, ma se non ce l'ho davanti, ho detto dalle un colpettino sopra dove c'è la colonnina, gliel'ha dato ma non l'ha ripartita. Quindi la tocchiamo a Fabrizio allora. Ah, boh, lo risolvo. Brecco. Ehi, avanti. Volevo sentire questo microfono di Riccardino, adesso sono arrivato. Ma non lo puoi sentire perché la radio le sta creando problemi. Mi ha telefonato adesso e deve chiamare a Fabrizio. E cioè? E cioè, lì si è quasi spento il frequenzimetro. Addirittura? Sì. Mi dispiace un bel cacchio, adesso che era tutto di lusso. Ma io a Fabrizio, quel problema, siccome quella radio l'ho usata anche Massi, io Fabrizio quando Massimiliano me l'ha portata qua per fare dei controlli così generali, insomma la voleva sentire dalla mia voce, a me me l'ha fatto quel difetto e io gli ho detto di dare uno sguardo, c'è qualche falso contatto sulla parte del frequenzimetro, ero riuscito a farla partire io, dandole un colpettino leggero sul frequenzimetro ed era ripartita, ma lui gli ho detto chiama Fabrizio. non ho fatto neanche in tempo a sentire come usciva. C'ho l'MB più 5 mi là, ha fatto le connessioni, lo vogliamo provare? Provo se va bene per te, non lo so, provo. L'MB più 5 che va bene, non ce n'è per nessuno, è quello di Massimiliano. Io ce l'ho e l'altro giorno lo stavo usando nessuno, ma non se n'è manco accorto nessuno che stavo usando quello lì. Guarda un po' che cazzo, mi pare che sta innescando di brutto, no? Poi è un carraggio. Sei tutto a frusci. Guardate, troppo alto. No, hai ragione Massimiliano, c'è qualcosa nel potenziometro lì. Oh là, guarda se sto uscendo adesso. Ma è metallica, Robert, non è microfono per te, no. Facciamo perdere. Ok, lo utilizziamo per i baracchini qui. Aspetta, e Tony come ce li ha? Il Tony è tutto chiuso, il volume. Guarda adesso. Oh là. Ma ascolta, fammi capire, ma è un microfono già usato o è una cosa nuova? No, un MB più 5 l'ha fatto, lo doveva provare con quella radio di Riccardino, ma poi si chiama Fabrizio, era il mio, l'ho dato a lui, mi ha fatto le connessioni qua, quelli del 44, e proprio a minimo, a zero, e i tuni a zero. No. Non mi piace. Allora, prima di tutto lì ci vuole una capsula, lì all'inizio bisogna togliere quella che ha lo sfondo marrone e mettergli una capsula a quelle che hanno lo sfondo verde, che le trovi nei giochi dei bambini, quei microfonini dei bambini, capito? Già prima di cosa bisogna cambiargli quello. No, adesso ho messo i toni tirati, ma non me ne ha fatti nulla, uso il 60 o la Dunis, adesso è una cagata ancora, dopo un po' di acuto. Così è già meglio. Adesso è ancora sollevato, ma basso di radio? No, non è bassissimo. Aumentalo un po' di radio, dal mic gain della radio. Guarda un po', 1, 2, 3, prova radio. Ancora un pelino. Non c'è più. Non sta uscendo. Guarda un po' adesso. Ora? Ecco, adesso sì. Ma forse sta innescando, mi pare, così è. No, non sta innescando niente, Claudio. Ehi, Massimo, ma non mi piace la voce, io sono sincero. No, non mi interessa, è solo una prova così, una curiosità, non mi interessa a me questo tipo di microfono, questo va bene, per altre cose, dai, io ti riscolta se si dovesse rompere qualcosa, ma è bassa, ditemi se è molto bassa la radio, perché sono al minimo di Mickey Game. No, già che è alta la voce, è che pare dritto, Robè, lascia per, non è per te, dai. Può andar bene forse per me, io se vuoi ti attacco quello di Massimiliano e tu ti metti a piangere rispetto a quello, perché è veramente una bellissima modulazione. Non vanno bene quei microfoni per te, Robè. Allora solo per provare, così adesso facciamo le nuove connessioni per il baracchino e attacco le data qua. Sembra che c'è una patata in bocca. Ma ascolta Robè, come fai a attaccare le baracchini adesso? Deve rimetterci la batteria lì. No, ma non ha fatto niente, Fabrizio ha utilizzato soltanto quattro connessioni e basta, ha eliminato l'alimentazione e basta, diretto. Ho capito, quindi non stai usando batteria. Senza batteria. Ah, ok, no, anche a me mi ha attaccato il burro filo dove aggancia la batteria, non c'è più neanche quello. Sono qua. È tuo? Lì che c'è Riccardino, sta chiamando. Non è Riccardino, è OG. Ehi, è OG, ciao, buonasera. Ciao OG. Fate sentire quello tuo. La gente che rubiglio che gli ho messo la bustina per non prendere freddo, poverino, che è dentro l'armadio. Vabbè, ma c'è un abisso, cioè. Cazzo, mi pare dritto, non ti dico cosa, cazzo. Aspetta e faccio sentire il mio. Ma quando tu togli il tappino dove c'è la capsula, cosa c'è anche quella cosa in ferro? A chi stai dicendo? A me, Max? Beh, pensavo stessi parlando oggi, no, avete parlato in due, un altro stava parlando sopra di te. No, non ho toccato niente, io gli ho dato un microfono, mi ha detto dammi una MB più 5, l'ho dato per Riccardo, io non so neanche cosa abbia fatto. L'ha messo diretto con le connessioni per il K e B. Non so se abbia smontato, piazzato, aggiunto, non so proprio niente, Massimiliano. Sì, ma basta togliere il tappino davanti, lo vedi? Se la capsula è rivestita di tipo una rondella grande in ferro, la capsula al centro, quella rondella ne vuole tolta e vuole messo il cotone. Sì, l'ho fatto anch'io negli altri baracchini, lo facevo, toglievo con la lamella di dietro metallica in modo da non facesse quel rumore metallico, ma non mi ne ha fatti nulla, Massimiliano, è un microfono, non è neanche nuovo, è anche un po' usato, non è nuovissimo, l'MV4 è nuovo fiammante in scatola, questo ce l'ho così, se dovesse capitare di usarlo e basta. Ma Riccardino ha proprio chiuso, Massimiliano. No, Riccardino c'ha problemi alla radio, questo è l'MV5. 25 di Massimiliano, guarda. Oh, allora, claro, è una cosa, stiamo parlando di cose diverse, probabilmente tutto regolato diversamente. Questa era una cosa che l'ha provata a dargli la Riccardino su quel 4.30. Ok, aspetta, c'è Eugenio, avanti Eugenio. Ehi, ciao Eugenio, ben sentito. Vai Massimiliano. Già l'ho salutato, Eugenio sta rientrando, sì, tutto a posto. Va bene, ok. No, io lo sai cosa è, Robè, è che quando stavate facendo le prove di modulazione così, cazzo, vi sentivate più voi chiacchierando che per Riccardino parlando, ecco perché non si comprendia nulla. Ma c'è via, questo è il mio 5, è tuo. Ma cazzo, non è buono, cazzo, mi ha radio. Non l'ho manco regolata, non ho toccato manco il 4.40, non ho toccato niente. Ho i toni a 1.5, come li avevamo messi, e la amplificazione è a 2 del microfono. E a 1.5, quasi a 2, è il mic della radio. Vabbè, Robè, cosa ne pensi di quello? Ah, ma questo l'ho sentito anche l'altra volta, è una bomba, stiamo parlando, c'è tutto un altro tipo di cosa. Ma non è dubitavo che era una cagata questo qua, l'MB più 5, era soltanto per dargli un po' di amplificazione a Riccardino. Sicuramente, magari sistemandolo meglio, questo MB più 5, facendogli qualche lavoretto, usciva molto meglio. Ti è presente che adesso ho dovuto chiudere tutto il mic gain per non far distorsi, sentivo i fischi anche qua dentro. I tuni li ho sollevati al massimo, prima erano tutti al minimo. Che è successo? Se Riccardino riusciva bene, ha fatto tutto e gli è andato bene, che è successo? No, allora Claudio gli ha dato un MC80 per provarlo, per vedere come vada, però dice c'è qualche problema sulla radio, mi stanno dicendo. Sì, gli si è azzerato di stream, ma l'ha fatto anche a me. Adesso bisogna che Fabrizio lo prenda con la radio e tira via quel falso contratto, perché è un falso contratto, capito? Quindi non può trasmettere perché non sa dov'è. Non c'ha display, c'ha solo uno zero, l'ultimo decimale lì a fare, basta, ma l'ha fatto anche a me. KK, mi pare da solissimo mi Massimiliano, l'MC60 me lo vendo. Fai così. A me non me lo vendo. Ciao, ciao G, ci sentiamo, buona carichetta, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, vai Robè. Ciao G, ci sentiamo presto. Ma chi c'è rimasto qua Massimiliano? Io, tu, Claudio, Eugenio e Boo. Fattarino, vai qua per Eugenio. Ciao Pitbull, ci sentiamo, le prossimine, KK, vai io. Natali, adesso lascio questo Massimiliano. Lascio. Lo posso ottenere? Dai, ne approfitto io che a fare QRT, ci sentiamo alle prossime, dai. Salutando tutti, anche quelli che ascoltano. Va bene, mi sembra che c'era Gianni un più rumpero anche, Gianni? Anche Gianni ha fatto un bel abbinamento, ha messo lo MB più 5 col magno, sta facendo bene. Sì, ma quando lo chiamo non rispondi mai, boh. E cos'è vuoi che ti dica? Adesso mi ascolto in cuffia, bene qua Massimiliano. La radio allucinante. Ebbene, ma lo lasci, ma lo posso usare? Certo che te lo lascio, usalo, se non ci mancherebbe altro. KK, io l'ho messo dentro la bustina, l'ho messo dentro l'armadio, ho detto, dice, grazie, gatto, il nuovo lui, il signor microfono. Ma magari ha fatto una cosa troppo veloce per darlo a Riccardino e magari si è dimenticato di fargli qualcosa là, anche perché quando tocchi quel potenziometro del volume, del mic gain, del volume del microfono, Robè, si sente tipo così, tipo come che sei fuori dal vento. Comunque, claro, non per dire, quel microfono lì c'ha un'amplificazione spaventosa, quando tu mi hai detto non si comprende nulla, c'ero solo io, loro erano minimo a 20 metri di distanza in un altro ambiente, e tu mi dici, li sento, ma se sono dalla Sabatti. Io quando provo le cose, quando parlo perché le prove le ho già fatte, ma che parlo così a vanvera, cioè io mi sono ascoltato e tu me l'hai fatto togliere quell'MC80, io l'ho messo sull'ICOM e sullo IAES, da paura con l'adattatore, da paura in AM, poi l'ho messo qua sul 4.30 e sul 4.40, è una cosa spaventosa con me, torniamo sempre al discorso con me. Ok, ma anche lì amplifica molto bene, va molto bene, non c'è niente da dire, capito? Assolutamente, per carità. Però Massimiliano vi diceva, allontanatevi cazzo, toglietevi da lì, vi sentivate più tu, Fabrizio e Sergio che Riccardino parlando, era lì il problema. Che io. Bella l'antenna, comunque l'ho vista, quella l'ha montata, un bel palo, tutto unico, c'ha un palo unico di 6 metri, bello grosso, di quelli che usano per i campi di calcetto, fissata in alto, bella veramente, è proprio perpendicolare, perfetto. Sì, sì, mi ha mandato le foto, non c'è problema, va bene, va bene. E io. Avanti. avanti Massimiliano, allora aumento ancora il tuo microfono, accetta che mi pongo le cuffie, lo voglio regolare ancora di più, a vedere se si pompa ancora di più, perché questo non distorce. Oh, il telefono a me, Bianco, un attimino. Io avanti. Regola, regola, vai, vai, non c'è problema. Accetta, mi pongo i cuffi con il monitor 756 che c'è anche i filtri. Ma ascolta, poi io mi sono allontanato che stasera, poi quando stavate facendo le prove con Riccardino, mi ha chiamato Gavino che ha messo, ha fatto l'adattatore e ha messo sempre quel microfono, però non so cosa gli abbia fatto, la radio ha migliorato un po', eh. Sì, ma glielo ho detto che andava bene, so che poi c'era un po' di casino, non ho più compreso nulla. E quando si fanno le prove con questi tipi di radio, è inutile che ci siano gatto 4 o 5 bassoni ad radio, fa bene e non comprendi la modulazione di chi deve parlare, capito? Tutto lì. Però ti ripeto, già sto uscendo bene, meglio del 60 secondo me. Di quel 60, poi bisogna provare un 60 in ordine, là. Certo che sì, non è che ci sono molti problemi, no. Lì bisogna provarlo bene. Allora, adesso non so se andare Mickey King qua, la radio, ecco qui. Allora, ho messo appena appena proprio di Cimbrana, eccola qua. Allora, Mickey Ginn è a 1,8, poco fa era a 1,5. Non ho toccato il microfono, domani alla radio. Sì, è un bel forte. Cosa? È un bel forte la radio, non strappa. No, non strappa, non lo so, deve strappare. Ma gli ho mai strappati, senti. Aspetta che metto 18 dB, così non mi incasina il coso. Allora, adesso tiro su leggermente il microfono. Allora, questo è il, ecco, a 2 l'ho messo, dai. È più bella a 2 però con i toni, Massimiliano, no? Sì, così è migliorato, sì. Infatti, mi sono ascoltato, mi piace di più. Era 1,5, il tono l'ho messo a 2, quindi qua deve andare il tono a 2. Adesso tiro su leggermente il Mickey Gain del microfono. Ce l'ho a 2, lo mettiamo a 3, eccolo qua. Madonna del capinetto. Così secondo me è troppo forte, secondo me a me già mi piace un attesi, che c'è una bella radio, però secondo me te la fanno abbassare. Vabbè, la passiamo appena appena. L'ho abbassata proprio un pelino, te, avanza. Tra il 2 e il 3 l'ho messa. Ecco, così è buono, è bellissimo. Allora vedi l'MB più 5 sopra il K come viaggia la grande. Viaggia sì, la voglia. Forse è uscito anche bene quel microfono là. Ecco. No, è cablato bene. Avanti Riccardi. Adesso sto usando un CD normale. Perché sei demoralizzato? Cos'è successo? Cosa ti ha detto Fabrizio? Perché adesso è impossibilitato, non mi può fare niente. Non essere triste Riccardo, le radio sono così. Quante volte io modulando ho avuto problemi, però io so quello che devo fare. Adesso lì deve intervenire di nuovo Fabrizio e vedere un po' cosa è successo, capito? Ma è un falso contatto, non ti preoccupare, non è successo niente. Ho capito, no, perché anche volevo provare l'MC80, visto che andavo bene. Lo so che vai bene con l'MC80, però adesso domani passerà Fabrizio e vedi un po'. Non lo so, io ci avrei messo le mani Ricca, però non è giusto, bisogna che lo controlli Fabrizio e veda un po' dove è il falso contatto, capito? E poi va bene, dai, avanti Massimiliano, quindi lascio così, regolata così. Sì, lasciala così, non tocca se. Guarda Riccardi, lui sta usando un MB5 col K, bene sta andando. Sì, non me ne stavo accorgendo molto, stavo pensando comunque. Riprova Cla. Guarda, questo è il microfono che stavi usando tu, guarda. Si sporta presso un po' di mondezza, però non c'è problema. Ma vedi come esce bene. Questo è di Massimiliano il microfono, ed è un MB+5. Cablato Kenwood, ok? Questo va benissimo, guarda come va con me. Sì, già va benissimo comunque. Ma ti volevo chiedere, ma questo è un problema del K o questa radio che ha fatto questo problema. No, è quella radio che ha un falso contatto, Riccardo, non ti preoccupare, cioè, te lo mette a posto Fabrizio, non è niente di grave, è un falso contatto che c'è sulla parte del ricevitore display, non è niente di grave, non ti preoccupare. Adesso spengo il 756 così non senti manco più la ventola, ok? Riprendi Massimilia. Va bene. Hai provato a darle un colpettino sopra la carcassa quando lo accendi, Riccardi? Vedi se si riprende? Sì, ho provato, però si alzano i numeri, praticamente da 0 va fino a 9, solo una cifra da. È un mascello, vabbè. Vabbè, te la controllerà, dai. Sì, che già te la controlla, non è niente di particolare, dai. Va bene. Vedi adesso che non sente più niente, ma si vede che ho spento l'altra radio, perché quella c'è la ventola diretta, capito? Dai, spendi, devo ascoltare un messaggio del giovane, te lo spero, te lo ripeto con Riccardo. Kappa. Stai tranquillo, Riccardi. Non ti demoralizzare, già si mette a posto tutto, ok? Adesso c'è il microfono, adesso si dà uno sguardo un attimino alla radio e si vede che cosa gli è successo, ma non è niente di grave, capito? Riccardi, non preoccuparti, domani mattina dalla tua padre che la porto a Roberto, passa a prenderla io la prima mattinata. Seglia, ma quindi è un falso contatto, hai detto che l'aveva già fatto una volta? Sì, lo facevo ogni tanto, è qualche cosa, non è un problema, se ora tu il radio un po' da tarde può trappiccare, non ti preoccupare, te l'avevo detto anche io, potrebbe farlo quell'effetto, quindi perché lo sapevo già, ma l'aveva già detto anche cose, tu non ti preoccupare, non ti buoni burbani, tu domani non vai a toccare, te la metti in macchina, la faccia un attimino da Roberto, domani mattina io intorno alle 9, come ho detto, 9, dico un passo, vai a prendere, dico una piazza, poi anche se te la restituisco anche subito, se non sono più ferie, se non c'è qualcosa. Sono rientrato. Ehi, va bene, ciao Roberto. Si è demoralizzato, poi non ti preoccupare, ti ho detto, hai visto Fabrizio già ti ha detto, è un falso contatto, non ti preoccupare, l'ha fatto anche a me, ma poi non l'ha fatto più, quindi capito, adesso la riprende Fabrizio, le dà uno sguardo con la strumentazione, te la mette a posto e tu sei a cavallo. Io sto usando Fabrizio, MB5 di Massimiliano col 430, guarda. Va benissimo. Questo è, però l'hai fatto a doppia, questo è perfetto. Avanti, Robin Hood, ma domani con la scrivania la facciamo? Eia, già fatto, vieni dopo pranzo, la carichi e ti ce la bussi. Ok, ma con cosa sta uscendo Riccardino adesso? Sto uscendo con il Colt. Oh, comunque, Robin, se potevo, la vedo un'altra, perché ho cambiato posto, la vedo un'altra, non so se è trattato, la sono cambiata. Sarebbe bene, forse quella. Ehi, a tutti e due, se vuoi, io ti consiglio quella più piccola, quella grande è troppo grande, c'è qualche difettuccio sul piano di coso, superiore. Poi se vuoi quella te le porti via tutti e due, ti diverti. E l'altra invece è già, c'è la Claudio e la più piccola Massimiliano, così facciamo un po' di spazio. Ok, Fabri, però non mi piacevi tu come stavi uscendo, eri un po' mezzo saturo, cosa ci avevi? Un disombattore. Perché c'è un po' incomprensibile la radio. Ok, Claudio già esce forte, quella MB5 è una bomba, molto potente e chiara. Ok, io ho provato Fabrile MB5, se lo vuoi sentire, però mi hanno detto che ero dentro un baratto. Provo, io, dai, che te lo diciamo. Che cosa? Provo a vedere, a sentire. Adesso attacco, dai, così vi faccio divertire. Sicuramente bisogna fare un po' di regolazione. Beh, Fabri, cosa stai usando? Come c'è? Non va bene. Ma aspetta, sto ascoltando, parla più piano. Ma ci sono delle ventole della strumentazione che sto facendo un po' di connesso per quella radio. No, ma non ti capisco. Aspetta che cambio radio. Non cambiare radio, ti. E abbassa per l'amplificazione, Fabri. Roberto. Aspetta, la mia MP5, dentro un fusto di lamiera, così. Troppo cupo, sì, tu. Questo funziona meglio. Il livello microfonico com'è? Io lo sto usando, questo è il MB5 di Massimiliano che ha fatto Fabrizio, cablato input, alimentazione diretta. Io ho i toni a 2, la preamplificazione a 4 e il mic gain della radio 1,8, 1,5, 1,8. cosa utilizzi, perché io per dire con l'altra, con i baracchini utilizzo il Mickey Gain dell'apparato della radio tutta aperto, mentre invece il volume lo metto a 6 e il tono a 2. Dipende poi da che radio l'orario cambia, capito? No, ma io sto parlando col tappo, non sto parlando col baracchino. Io sono con 430 l'MB più 5 e ti ho dato le posizioni. Nell'MB più 5 c'ho il microfono a 3, quasi a 4, i toni sono a 2 e il Mickey Gain della radio è quasi a 2. Bene. Questo è il mio invece, vabbè, qua vorrà tutto regolato, amplificazione, toni eccetera. Fabri, dammi un controllante tu. Basso? Se cambia qualcosa. Sì, sta quando muovi il cursore, vorrà amplificato, alza la panatena. Ancora lo alzo? Sì, alza. Guarda un po', 1, 2, 3, prova radio. E i tuni a quanto ce l'hai? Adesso sono a 0 i tuni. Lascialo così, allora metterlo a 1 magari. Che differenza c'è dal mio al suo, dal MB più 5 Ottino? Ah, che io ce l'ho a lì 3 tuni. Aspetta un attimo, ciao. Fai un passaggio, Robè, con i tuni a 1, Ora 1, 2, 3, prova radio, canale 10. Alza appena ancora di amplificazione. 1, 2, 3, prova radio, mi sa che stai innescando. Sì, abbassa appena, abbassa. E aumenta i tuni a 1,5. E 1, 2, 3, prova radio, questo è un passaggio. E questo è l'altro passaggio, 1, 2, 3, prova radio. No, c'è molta differenza in confronto a quello di Claudio è più spinto, più pulita la radio, non è che senza offesa per nessuno. Abbassa i toni a 1. No, non mi interessa, ci mancherebbe, lo so che questo è un microfono economico, ma il suo, con quella radio mi sa che sta fischiando. Eccolo qua. Allora, abbasso un pochettino, 1, 2, 3, prova radio. Infatti è un innesco. Ancora c'è, guarda. Un attimo, sì, no, non ho sentito l'innesco, prova di nuovo. 1, 2, 3, prova radio. Io sento occupati. Bene, dai, perché se aumenti vai a strappare. Io sento occupati. Ma se aumenta l'amplificazione inizia a strappare, inizia a distorce molto la modulazione. Se aumenti i tuni ancora peggio. Adesso sono andato i tuni, 1, 2, 3, prova radio, mi sono anche un po' allontanato. No, ecco, bravo, via. E così è, poi lo tieni tu, è totalmente diverso dalla tua, poi dipende se che cazzo ha anche. No, mi interessa, era soltanto una prova che abbiamo fatto con Fabrizio, adesso ho fatto la prova per il cardino, allora io utilizzo l'altro, poi se uno si aspetta sicuramente se Fabrizio si mette e farà uscire a mezzo del 60, non è dubito, ma non mi interessa, lasciamo le cose come sono, dai. Ok, Fabrizio, prova tu a parlare. Allora, guarda, non so se è troppo alto, forse io lo tengo sempre così, poi se è toccato qualcosa. Si sente un boom gracchiante, tipo Saturno, che fa? Ma cos'è il 60, Fabrizio? È sempre una radio utilizzo, il 60 col K. Come sta uscendo così distorto? No, beh, ma sta uscendo malissimo, eh. Vabbè, la saluta, non è questo, me lo aspetto, lo cambio. Per carità, non si compra nulla, Roberto, nuda, ciao, questa radio pessima. Io come esco? Non c'è niente, Wendy, a te è peggio Wendy, vabbè. Bisogna lasciare le cose come stanno, No, Tino, io questo lo uso come il 60, non ci sono problemi, questo è perfetto, va benissimo, non cambia niente dal 60 a questo. Qualcosina già, però va bene, va benissimo in confronto a Roberto, Io tengo questo, non mi interessa. Questa è un'altra cosa. Intanto non ti vedi blu, cioè guarda, è prove, se tu prove, non va bene, boh. No, ma non è l'unico, è Claudio che c'è bene con i microfoni, questo di microfoni dà, purtroppo voi ci date in bicca, vuol dire tanto, Sì, però, Lu, cosa vuol dire non fate prove? Se le prove si fanno c'è un motivo, se no non vai a sapere cosa potresti utilizzare. Magari tu stai utilizzando i microfoni, te ne do un altro che sarà anche più vecchio di quello, dici meglio, cosa ne sai? Scusa, le prove vanno fatte. Io ce l'ho il sistema produttivo, è un altro tipo di gioco, di quello completamente più gioco. la capsula dell'MC60 con una RCF che è quasi uguale, la testa di un microfono professionale RCF, si fanno degli adattamenti. Conosco uno che l'ha già fatto e c'ha un guadagno grandissimo sia di qualità che di modulazione. Sì, avete parlato in due, comunque ho capito, vabbè. Io sono sempre d'accordo a fare le prove, ma in qualsiasi tipo.